Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, scusate se sorrido, ma con quello che è successo nel fine settimana è chiaro che il tema principale può essere solo uno, ossia che cosa capiterà adesso, che cosa sta già capitando. Allora, senza allarmismi, con quella che è la linea di questo programma da quando esiste, per cui senza enfasi, senza buttarla, come si diceva una volta, in politica partigiana, però non c'è uno spread che è schizzato a livelli drammatici, no, non c'è, ed sarebbe sbagliato dire che c'è. C'è uno spread che è risalito, certo che è risalito, poi è anche ridisceso sotto i 270 punti. A me quello che fa impressione è comunque il fatto che la Spagna, invece, a dimostrazione che poi la politica conta, resti a 255 punti, quindi siamo a già 10 punti superiore alla Spagna. Voi direte, è un dramma? No, non è un dramma, ma è un brutto segnale, perché questo paese, e lo dico con chiarezza, non ha nessun motivo per essere giudicato più a rischio, quindi per dover pagare più interessi per trovare finanziatori sul suo debito, della Spagna, perché quelli che si chiamano fondamentali economici, lo abbiamo spiegato molte volte, sono decisamente più forti e migliori in Italia rispetto alla Spagna. Abbiamo un export che la Spagna si sogna, siamo secondo paese per esportazioni dopo la Germania, abbiamo una struttura di impresa, col massimo rispetto per gli spagnoli, che la Spagna si sogna, non abbiamo avuto la bolla del mercato immobiliare come ha avuto la Spagna. Sulle banche non lo so, però diciamo che anche le banche spagnole non erano messe benissimo, le casse di risparmio locali confluite in Bankia. Che cosa ha la Spagna più di noi? Beh, è molto facile, la Spagna più di noi ha un governo stabile che alcune riforme le ha fatte, e su questo si è visto riconoscere una credibilità da parte dell'Europa. Poi uno può girarci attorno come vuole, ma è inutile buttarla sempre in opinioni. Lo spread non è un'opinione, è un fatto. Beh, primo punto. Secondo punto, sulla borsa c'è stato un effetto drammatico. C'è stato questa mattina un'apertura molto brutta, adesso l'indice ha recuperato qualcosa, perde l'1,20%, devo dire che perde quello che perde Parigi, quindi non si può dire che la borsa in questo momento stia crollando, stia andando male, peggio delle altre borse europee per via della crisi politica. Meno 1,20%, Francoforte fa meno 0,90%, Londra fa meno 0,90%. È chiaro che rispetto a due anni fa, a quel drammatico periodo settembre, ottobre, novembre 2011, quando lo spread arrivò a 540 punti, quando ci si fidava così poco dell'Italia che rendeva di più prestare soldi in BTP a 3 anni o a 5 anni che non a 10 anni, quindi non si scommetteva nemmeno su quello che sarebbe stata l'Italia fra 10 anni. È chiaro che rispetto ad allora c'è stato un intervento importante della Banca Centrale Europea, che Mario Draghi ha fatto capire in tutti i modi l'anno scorso e quest'anno che userà qualunque misura convenzionale non per difendere l'euro, e quindi non siamo in quella situazione a livello europeo, e questo si riflette anche sulle tensioni. Però è anche vero che, poi adesso vi rileggerò, i commenti che arrivano dall'Europa sono di estrema preoccupazione, e quindi un quotidiano serio e posato come Le Monde, quotidiano francese, dice l'instabilità politica italiana è una minaccia per l'esistenza stessa dell'euro, e la stessa Angela Merkel, tramite il suo portavoce, fa sapere che la stabilità dell'Italia è interesse stesso del governo tedesco e segue con attenzione quello che sta capitando. Poi c'è la spada di Damocle delle agenzie di rating. Perché? Perché da 4 giorni che girano voci che Moody's potrebbe abbassare il voto sull'Italia, adesso ci si è messa anche Fitch, che ha detto l'instabilità politica pesa, la tensione politica peserà come rischio sul voto dell'Italia, e noi non possiamo permetterci un ulteriore abbassamento del voto. Fitch ha anche detto che se l'Italia manca gli obiettivi sarà difficile un aiuto da parte della Banca Centrale Europea e dell'Unione Europea stessa, e questo per quello che riguarda le agenzie di rating. Il tutto nel giorno in cui andremo anche a commentare, lo dico perché ci sono anche altri temi in questa giornata, le dimissioni, l'uscita del numero uno di Intesa San Paolo, un'uscita abbastanza complicata, bene andata però a Cucchiani che, come d'accordo, ha preso due anni di stipendio, 3.600.000 euro. Però insomma qualche tensione si è registrata anche e soprattutto sul titolo. Devo dire che Intesa San Paolo è tra i peggiori, non è il peggiore che UbiBanca, meno 4,16, ma in una giornata in cui tutti i bancari vanno male per via dello spread, delle tensioni. UbiBanca meno 4,16, Intesa San Paolo meno 3,30, Popolare Emilia Romagna meno 3,20%, Banco Popolare meno 3%, e ancora per quello che riguarda i titoli bancari, Monte dei Paschi meno 2,24%, Fondiaria Assai meno 2,30%. Il peggior titolo è Mediaset, meno 4,33% a 3 euro per azione, Mediobanca perde il 3%, Microelectronics il 2,50%, Mediolanum il 2,40%, Finmeccanica appunto il 2,40%, A2A il 2,30%. Va bene invece Telecom Italia molto bene, più 4,91%, Autogrill più 2%, G-Tech più 1,70%, TOZ più 1,1%. Di cosa parleremo oltre che di Intesa San Paolo e del governo, o meglio delle ripercussioni economico-finanziarie del governo? Parleremo anche degli Stati Uniti, perché si trovano nuovamente sull'orlo di uno shutdown tecnico, quindi il bilancio per l'anno fiscale 2014 che inizia il 1 ottobre non è stato ancora approvato, e senza un accordo in extremis da domani scatterà automaticamente. In America funziona così, quando non approvi il bilancio e non hai il budget, scatta la chiusura graduale di molti uffici pubblici dell'amministrazione federale. A rischio sono 800.000 dipendenti statali. Chiuderanno i parchi nazionali, resteranno aperti i reparti di pronto soccorso, lavorerà la polizia ma non gli ispettori, per esempio, che controllano la sicurezza delle auto. A casa il personale della NASA e anche i magistrati di turno. In America, appunto, se non hai i soldi per la legge finanziaria, se la legge finanziaria non prevede lo stanziamento per la pubblica amministrazione, chiudono gli uffici. Non è come da noi che intanto accumuliamo deficit. Lo dico perché è ovvio che è una soluzione estrema, e anche che il governo americano sta tentando di evitare in ogni modo. Allora, che le ricadute, vedo molti messaggi, ma è ovvio che questa notte, mezzanotte, aumenterà l'IVA in automatico. È ovvio che, torniamo alla politica italiana, che anche sulla seconda rata dell'IMU io non so come un governo riesca ad avere la forza di trovare 7 miliardi, ma ormai l'IVA ce la siamo giocata, dai. Ma almeno l'IMU più il resto sono altri 5 miliardi, perché bisogna correggere il deficit che è superiore all'attese, trovare i soldi per il finanziamento delle missioni italiane all'estero e la cassa integrazione straordinaria, e poi l'IMU, sono 2 miliardi e 4 di IMU, in tutto fanno circa 5 miliardi. Bene, bisogna trovare questi soldi. Lo riesce a fare un governo dimissionario? No. Un governo con una maggioranza debole? Difficilmente. Però, queste le situazioni. Devo dire, non parleremo di politica, però un giudizio netto lo darà il direttore del Sole 24 Ore e di Radio 24, Roberto Napoletano, nella seconda ora del programma. È uscito un suo editoriale ieri su Sole 24 Ore molto chiaro su questo, si intitola Dignità. Insomma, la scelta del leader del PDL Silvio Berlusconi è una scelta che non guarda in questo momento agli interessi del paese, ma agli interessi personali. Questo vuol dire, usciamo da qualunque gioco rimpiattino. Insomma, il tema sono i casi giudiziari, lo scontro politico lo abbiamo visto, lo abbiamo testimoniato, lo stiamo osservando da mesi, anzi è da mesi che la politica si occupa prevalentemente di questo, e chiediamo invece che torni a occuparsi della situazione in cui versano gli italiani. In questa situazione particolare, a mio avviso, è un lusso che il paese non si può permettere, perché anche perché, voglio dire, qualunque cittadino ha diritto di difendersi come crede, dove crede, anche dopo tre gradi di giudizio, ricorsi all'AIA, quant'altro. Però attenzione, in questo momento il paese Italia, che è già quello più debole dei paesi europei, se lasciamo stare la Grecia, dell'area euro, e ha il debito più grande, non si può permettere di dare e proiettare questa ennesima immagine di un paese allo sbando, di un paese in cui non c'è una rotta, perché questo sarebbe un lusso comunque, ma in questo momento più che un lusso diventa quasi un crimine. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Ripeto, non è un giudizio politico, è un giudizio sulle conseguenze economiche e finanziarie di scelte politiche. Le altre notizie in breve. Vabbè, almeno qualcuno che mi fa sorridere. Dice, lei però purtroppo nel nuovo palinsesto di Radio 24 è rimasto. Lo so, non siamo riusciti a rimediare a tutti gli errori, io sono rimasto. In realtà è per noi un giorno importante, per la radio è un giorno importante, perché come avete già sentito questa mattina con Giovanni Minoli, Mix 24, ma poi anche il GR lungo dalle 13 alle 14, effetto giorno, che ha poi un suo corrispettivo dalle 21 alle 22 in effetto notte, sono due GR, diciamo, di approfondimento lunghi un'ora, con le notizie che vengono ridate ogni quarto d'ora, ma poi anche l'ingresso di Pardo nello sport, il ritorno di Oscar Giannino che già anticipammo venerdì, a uno può piacere o no, ma mi sembrano investimenti che puntano sull'informazione, sull'analisi, anche sul commento, nello stile di questa radio, nello stile di questo gruppo. Ma andiamo avanti con le altre notizie, dicevo, ne parleremo anche più avanti, però al di là della vicenda intesa San Paolo e del budget americano, oggi l'oro è in rialzo proprio sull'impasse politica statunitense, va a $1,354 l'oncia. Il petrolio invece è in calo a $101 al barile. Per quello che riguarda il Fondo Monetario, oggi il Fondo Monetario fa notare che gli shock positivi o negativi negli Stati Uniti hanno effetto contagio sulle altre economie superiore a quello dell'area euro e del Giappone, e questo lo sappiamo anche noi, cioè gli Stati Uniti hanno un peso maggiore, ma soprattutto il Fondo Monetario fa notare che il rallentamento della Cina è più forte delle attese, ed è la preoccupazione del momento. In aggiunta chiede il Fondo Monetario che la Banca Centrale Americana comunichi efficacemente i cambi di politica monetaria e la invita a essere calibrata, perché gli effetti non valgono solo in America e sul dollaro, ma sono effetti globali. Nel frattempo la classifica dei marchi più influenti. La Coca-Cola perde lo scettro di marchio più influente al mondo, lo afferma la società di consulenza Interbrand. Il gigante delle bibite cede il posto per la prima volta dal 2000 alla Apple al primo posto, segue Google, Coca-Cola scivola al terzo posto. In classifica ci sono anche due marchi italiani, Prada al 72esimo posto e Ferrari al 98esimo posto. Dati italiani, un buon dato riguarda l'inflazione, nel senso che a settembre è crollata al 0,9%, cioè i prezzi sono cresciuti dello 0,9%, siamo ai minimi dal 2009, questo per farlo capire anche ai tedeschi, che in questo momento con i consumi in immersione non c'è un problema di inflazione, scusatemi la rima baciata. La frenata è dovuta comunque al prezzo dei carburanti, però attenzione, c'è una frenata nei prezzi anche del cosiddetto carrello della spesa, più 1% a settembre. Che è successo? Che non vendendo si abbassano i prezzi o comunque non li si fanno salire, molto facile, non è un problema di mercato, non è un effetto di un mercato virtuoso in cui la domanda si incrocia con l'offerta e noi riusciamo a tenere bassa l'inflazione. Qui è un problema che gli italiani non hanno soldi da spendere, non spendendo difficilmente i commercianti aumentano i prezzi, anzi tendono anche a abbassarli quando riescono, e quindi si fa più 1% come inflazione dei prezzi dei generi più comprati, quelli che entrano nel cosiddetto carrello della spesa. Anche qui è la crescita più bassa dell'inflazione dall'ottobre del 2009. Addirittura i prezzi della produzione industriale sono calati del 2% rispetto al settembre del 2012, calo più forte anche qui dal novembre del 2009. Alcune delle reazioni oggi agli elementi di carattere politico. Allora, dopo che sabato scorso Silvio Berlusconi ha ordinato ai suoi ministri di rompere le righe, invitando appunto i ministri a rassegnare le dimissioni, a stretto giro poi il vice premier, lo ricorderete, Angelino Alfano, ha detto che il governo Letta non esiste più. Questa mattina Alfano, insieme agli altri ministri del PDL, ha rassegnato le dimissioni dal governo in modo irrevocabile. c'è un vertice in corso, se ho ben visto, è ancora in corso. Prima c'è stato questa mattina un vertice e gli altri ministri, tra Berlusconi e gli altri ministri del PDL, poi con i deputati del PDL stesso. Mercoledì il Premier Letta interverrà prima al Senato e poi nel pomeriggio alla Camera a partire dalle 16. E vorrei fare sentire, anche se l'abbiamo già usata, ma insomma mi sembra importante per capire lo scenario che si sta delineando, quanto dichiarato ieri il Presidente del Consiglio Enrico Letta, intervenuto nella trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. Penso che la cosa migliore per gli italiani è che io vada rapidamente in Parlamento a obbligare tutti a chiarire le loro posizioni, e questo è fondamentale anche per me, perché io non voglio governare come un re travicello, non voglio essere un re travicello, voglio avere le condizioni per poter fare le cose, per applicare le riforme che abbiamo cominciato. Se queste condizioni non ci sono, ovviamente non a tutti i costi. E su questo è intervenuto anche il presidente Confindustria, Giorgio Squinzi. Ha detto no alle elezioni senza una legge di stabilità, senza una legge finanziaria, perché se andiamo alle elezioni e sciogliamo le Camere, il decreto per la legge di stabilità, appunto la legge finanziaria come si chiama adesso, o non si fa o comunque sarebbe un pateracchio. Occorre portare avanti l'azione di governo in maniera coerente e precisa. Imbarcarsi in quello che sta venendo avanti, cioè una crisi al buio, il voto immediato, sarebbe un atto folle. La preoccupazione rimane ed è fortissima, preoccupazione veramente tanta, perché per 5 anni qui abbiamo fatto sacrifici tutti gli italiani, tutte le imprese, per cercare di raddrizzare la situazione, e quello che si sta verificando in questi giorni certamente non aiuta. La mia paura è che, beh, innanzitutto bisogna che la legge di stabilità passi e ci sia un piano preciso per l'anno prossimo. E secondo, la paura che non si, poi alla fine non si venga commissariati dall'Europa. Il messaggio è il decreto di stabilità deve essere fatto, e deve essere fatto nel modo migliore. E con le elezioni credo che se sciogliamo le Camere oggi non si fa. Non si fa certamente il decreto, o si fa comunque un pateracchio. Bisognerebbe portare avanti l'azione di governo in maniera coerente e precisa. Solo pochi giorni fa Confindustria si era ritrovata con le altre sigle industriali per chiedere a un governo la continuità. Noi continuiamo a chiedere le stesse cose, non abbiamo cambiato d'opinione. Bisogna fare presto, perché i risultati li stiamo vedendo, gli spread, le borse che impazziscono. Bisogna fare presto. IVA per noi non era una priorità. La priorità sono i pagamenti dei debiti a pubblica amministrazione, gli interventi sul costo del lavoro, le riforme del paese, senza di cui lo status quo che ci ha perseguitato in questi ultimi 20 anni non potrà essere modificato. Così presidente Confindustria Giorgio Squinzi, al microfono della nostra Claudia Vanni, giovane stagista molto brava. È bello anche lavorare con i giovani, se questo paese si occupasse un po' più dei giovani ogni tanto, ma poi ne parleremo, perché in tutto questo non c'è solo l'IVA, non c'è solo la seconda rata dell'IMU, non c'è un rischio forte sul nostro voto, c'è anche una disinteresse totale nei confronti di quello che sarà il futuro del nostro paese. Ripeto, non è tanto l'IVA e basta il problema. Questo paese è pronto, lo vediamo dai messaggi che arrivano, dalle mail, a fare altri sacrifici pure a malincuore, se vede un obiettivo, se vede un progetto, se vede che non si tira solo a campare o magari si seguono solo interessi personali. Perché è un paese che, lo vediamo dalle mail, chiedo una cosa in regia, per favore non mi fate segnali mentre sto in diretta, grazie, lo vediamo dalle mail. Ci sono tantissimi ascoltatori che sono preoccupati non per il loro destino personale basta, ma anche e soprattutto per il destino dei loro figli. Allora, se uno i figli non li ha sistemati, certo che se uno i figli li ha già sistemati, chi se ne frega. Vabbè, ne parleremo più avanti. Comunque, anche col direttore del Sole 24 Ore, invece, su questo, questa mattina, primo ospite dei Faccia a Faccia di Giovanni Minoli, che diventerà un'abitudine di questo palinsesto, di questa radio, il leader del PD Guglielmo Epifani, che dice no al governicchio. No al governicchio vuol dire no a un governo che trova un po' di voti di transfughi e vive una vita stentata. E c'è un'altra possibilità? Lo vedremo dopo mercoledì. Mercoledì è il giorno della verità tra Senato e Camera, e soprattutto al Senato lì si capirà cosa succede. Ma lei si aspetta una rottura dentro il PDL? Ma vedo che c'è una grande discussione al loro interno. Oggi hanno la loro assemblea dei gruppi. Vediamo come finisce. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, si balla in questo paese, e la mia testa è una giungla, ma non ci capisco più niente sulla situazione politica italiana, ma anche su quello che sta capitando negli Stati Uniti, perché insomma noi abbiamo i nostri problemi, ma in America si sta creando un impasse politico che cercheranno di risolvere entro domani, perché sennò domani scatterà automaticamente la chiusura graduale di molti uffici pubblici dell'amministrazione federale, perché non riescono a trovare negli Stati Uniti un accordo sul bilancio per l'anno fiscale 2014, che in America inizia il 1 ottobre. L'ultima volta in cui il governo di Washington non è riuscito a ripagare le agenzie federali risale a 17 anni fa sotto Bill Clinton. Lo shutdown, cioè il governo non ha i soldi per pagare appunto lo Stato federale, durò 20 giorni, per la precisione fino al 6 gennaio del 96. Ma una crisi che potrebbe aggravarsi, perché il prossimo 17 ottobre il Tesoro americano potrebbe raggiungere il tetto sul debito, quindi non ottiene un via libera a sforare, oppure non saranno più in grado di prendere soldi a prestito per pagare stipendi e gli interessi sul debito pregresso, quindi entrerebbero in default tecnico. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, aiutaci a capire una cosa, nel senso che qui il problema mi sembra non finanziario ma politico, cioè noi in Europa abbiamo un problema di carattere tecnico-finanziario, non possiamo superare come deficit il 3%, quindi c'è proprio un limite statistico, diciamo. Lì mi sembra che l'amministrazione sia ancora ostaggio dello scontro tra repubblicani e democratici, più che un problema meramente di budget. Prego. Hai detto benissimo, è un problema politico, Sebastiano, hai ragione, è un problema direi di estremismo politico, perché i repubblicani chiedono che venga definanziato, che vengano tolti, diciamo, quelli che erano stati i fondi destinati al programma sanitario di Obama, che dovrà entrare in vigore nel 2014. Siccome non hanno mai sopportato il passaggio di questo programma sanitario nazionale che finalmente gli Stati Uniti riuscivano a conquistare, rifiutano di approvare il budget 2014, quindi la legge finanziaria, il bilancio per il 2014, se non si toglieranno questi finanziamenti al programma sanitario che loro chiedono sia rimandato di un anno. Naturalmente Obama non può cedere su quello che è il più importante programma sociale della sua presidenza, e dunque si è arrivati a questo muro contro muro su questo punto esclusivamente. Non si capisce come ne usciranno, perché il Senato all'ultimo momento, durante il fine settimana, è riuscito a restituire alla Camera una proposta di legge che prevedeva uno stop gap, cioè una misura per prolungare di un altro mese, fai conto, il progetto di bilancio. Eppure la Camera ieri ha votato contro, e oggi pomeriggio rimanderà questa legge, che per questo suo progetto di legge emendato, e che continua a contenere il passaggio sul definanziamento del piano sanitario di Obama. Ecco, il Senato lo riceverà penso intorno alle 4 o alle 5 del pomeriggio, molto tardi per cercare un compromesso, voterà contro, e a partire dalla mezzanotte di oggi, di lunedì, il governo americano, in mancanza di una soluzione d'ultima ora, chiuderà. E saranno delle chiusure, come tu dicevi, selettive, Per esempio le forze armate continueranno ad essere pagate, hanno trovato il modo per continuare a pagare gli stipendi dei militari, ma una gran quantità di funzionari pubblici dei ministeri semplicemente domani mattina non andranno più al lavoro, saranno sospesi dal lavoro perché non ci sono i fondi per pagarli. E questo significa che una gran quantità di pratiche nei vari ministeri rallenteranno e si bloccheranno, e a cascata ci saranno problemi per gli Stati Uniti d'America. La speranza è che una soluzione, un compromesso lo si trovi, però devo dirti che in questo momento l'umore è negativo. In questo momento l'umore è che domani mattina il governo, gli uffici pubblici degli Stati Uniti d'America saranno chiusi. Sì, è una cosa per noi inimmaginabile, no? Perché noi piuttosto sforiamo il deficit, veniamo ripresi dall'Europa, quant'altro, ma non si è mai chiuso un ufficio in questo paese. In America però, cioè, da questo punto di vista, l'automatismo è netto, è chiaro, cioè non è una scelta politica, scatta in automatico. No, no, è netto, scatta in automatico semplicemente perché non c'è un accordo e quindi, non essendo stato tecnicamente finanziato il bilancio, la legge finanziaria, allora la partita, come tu dicevi, è politica, perché chi è che resta col cerino in mano? I repubblicani che hanno creato questo stato di cose secondo l'amministrazione Obama, oppure i democratici che si ostinano a difendere il progetto sanitario di Obama, che diciamo non è ben visto dalla maggioranza degli americani. Ecco, su questa e attorno a questa partita devo dire che si gioca una scommessa piuttosto complessa, perché poi il vero ostaggio è l'economia americana e il paese. E questo ovviamente non è bello, come devo dire poi succede anche da noi su fronti diversi e su altre cose, insomma. Grazie Mario Pratello, stiamo a vedere, ma mi sembra che tu nutra poche possibilità e poche speranze che la situazione esca da questo impasse. Abbiamo tempo fino a stanotte, sì, vabbè, ma insomma, si è riusciti a trovare un compromesso all'ultimo minuto dell'ultima ora, però proprio per questo tecnicismo che romperanno formalmente intorno alle 5, alle 6, allora a quel punto è possibile che le parti tornino insieme, lavorino nella notte, poi magari alle 3 del mattino, alle 4 del mattino fanno un accordo. È successo prima, magari succederà anche oggi, ma devo dire, diciamo che comunque non è una bella cosa, al di là di come vada a finire. Grazie Mario Pratello, attenzione come grazie fanno alcuni ascoltatori a dire mal comune mezzo gaudio, sono due mali molto molto diversi, dice un paese che ha dei meccanismi molto diversi, e soprattutto c'è una lotta politica, uno lo può pensare come vuole, su una riforma sanitaria che i repubblicani vedono come un venir meno del loro credo e hanno tutti i diritti per farlo. Per Obama invece è forse la riforma più importante da primo presidente di colore democratico. Questo però è uno scontro politico su scelte di politica interna, allargare o no la copertura sanitaria ai 35 milioni di americani che non ce l'hanno ancora, questo è comunque fare politica. Mi sembra che invece il nostro impasse, la nostra crisi di governo non nasca, diciamo, da uno scontro così ideologico tra cosa fare dei soldi pubblici, se allargare la platea, se usarli per ridurre le tasse nel cuneo fiscale, oppure per ridurre l'IVA, oppure per dire all'Europa basta, sforiamo il 3%, vogliamo fare gli investimenti infrastrutturali. Mi piacerebbe un paese, e poi lo diremo nel nostro sogno, in cui le crisi si aprono perché c'è uno scontro forte su scelte diverse, sul futuro economico, industriale e quindi anche sociale dell'Italia. Mi sembra che non sia così. Comunque la borsa. Flavia Carletti, Radio Corriere Sole 24 Ore, oggi tutte negative le borse, va detto subito però per dovere di informazione che Milano non è peggio delle altre, cioè non c'è un effetto crisi politica su Milano, meno 1,20% Milano, meno 1% Parigi, meno 0,70% Francoforte, meno 0,80% Londra, meno 0,60% in questo momento gli Stati Uniti, però i bancari nostri sono tutti messi maluccio oggi. Sì, esatto, buonasera a tutti. I bancari sono stati tra i titoli più penalizzati della seduta da questa mattina. Hanno pagato sicuramente il fatto che in avvio di contrattazione lo spread era salito oltre i 280 punti base e aveva soprattutto si era distaccato da quello che invece è il rapporto tra il decennale del titolo di Stato spagnolo e quello tedesco. Quindi in pratica i mercati a un certo punto hanno premiato di più la Spagna rispetto all'Italia, anche se poi con l'andamento della giornata, con i mercati che hanno iniziato forse a scommettere che si possa arrivare a Oletta bis mercoledì, lo spread è calato e in qualche modo si è anche riavvicinato il livello italiano con quello spagnolo, tuttavia i titoli bancari hanno pagato questo andamento e non sono riusciti a recuperare come invece ha fatto lo spread. E infatti sono rimasti tra virgolette zavorrati: UbiBanca meno 4,1, Intesa San Paolo meno 3,5, Pop Emilia Romagna meno 3,20, Fondiaria Sai meno 3%, Banco Popolare meno 2,70 e poi poco altro. Il peggior titolo è Mediaset meno 4,50%, e qui chiaramente c'entra la politica, anche perché va pure male Mediolanum oggi. ...17.48 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo, al di là dei titoli bancari, dello spread, Mediaset il peggior titolo oggi in borsa, negativa anche Mediolanum. Qual è il ragionamento però che fa il mercato? Beh, il mercato ha fatto un ragionamento sul fatto che, per quanto i ministri del PDL si siano dimessi tutti quanti, sono iniziati subito dopo le dimissioni tutta una serie di distinguo a livello politico, e quindi questa spaccatura che potrebbe venire a crearsi all'interno del PDL non è ben vista dagli operatori, in ottica dei titoli di questa galassia, diciamo, che ruota intorno a Berlusconi, Mediaset più direttamente e Mediolanum perché è partecipata da Fininvest, e quindi in qualche modo alcuni analisti hanno iniziato a parlare che si potrebbe ipotizzare un'epoca post Berlusconi, e quindi probabilmente in questa situazione di incertezza di oggi sono andati a vendere soprattutto questi titoli, proprio perché ci si aspetta un'alta volatilità in questi giorni finché non sarà un po' più chiara la situazione politica. Sì, assolutamente, su questo il ragionamento è molto molto facile, dicevamo negativa anche Mediolanum. Vorrei chiudere con una notizia che riguarda la Roma Calcio, che è il miglior titolo oggi nel listino. Così respiriamo anche un attimo, perché veramente in questo paese l'aria è sempre più pesante. Più 7%, insomma, vincere conviene anche la borsa, no? 6 partite consecutive. Sì, esattamente, appunto ha chiuso la seduta con un rialzo del 7-16% ed è stato per tutta la seduta il miglior titolo. Come dicevi, è reduce da 6 vittorie consecutive, ieri c'è stata l'ennesima con questo 5-0 contro Bologna, e molti giornalisti sportivi ricordavano che dall'anno dello scudetto che la Roma non aveva dei risultati di questo tipo, e quindi probabilmente si è generata sia una speculazione magari da mercato, perché l'obiettivo della Roma è arrivare alle coppe, che non fa da 2 anni, che sono comunque soldi che possono entrare nelle casse della società, e in più probabilmente c'è anche una speculazione di tifosi, visto che c'è questo rimando continuo all'anno dello scudetto. Grazie, do anche i migliori e peggiori, perché più 7-16 la Roma, ma bene anche Serp, pagine gialle, più 6-20, Telecom. Mi fai una battuta su Telecom che l'abbiamo dimenticata, più 5,17%. Beh, Telecom c'è questa grande attesa per il consiglio di amministrazione del 3 ottobre e tutti si aspettano le dimissioni del presidente Bernabé. E secondo il mercato le dimissioni di Bernabé potrebbero far allontanare un aumento di capitale, che quindi dal punto di vista dell'equity lo premia, anche se poi diciamo sono tutta una serie invece di ragionamenti. Beh, diciamo anche chi dovrebbe arrivare a questo punto, perché le voci, insomma, sì, sono molto forti sull'attuale capo delle Poste Italiane, Sarmi, per cui insomma... Che sarebbe già stato scelto dai soci spagnoli. Esatto, beh, sai, quando Bernabé dice io ho saputo del cambio dell'azionariato dal comunicato stampa, di fatto per un numero uno è un modo per dire non ci sto più in questo gruppo, insomma, non era abbastanza nell'aria. Grazie a Flavia Carletti. Devo parlare adesso della vicenda Intesa San Paolo, che insomma, non c'è solo la politica in questo paese. E anche rispondere a qualche sms arrivato al 349-238-6666, mentre ci sono poi messaggi sulla pagina di Focus Economia su Facebook. Dunque, c'è un ascoltatore che dice, beh, insomma, stanno per ingabbiare, quindi mettere in carcere il leader di un grande partito, c'è di mezzo un valore democratico, non è una cosa da poco. No, ma guardi, ben lungi dare valutazioni su quello che è successo, però voglio dire, un conto è il percorso individuale di una persona che giustamente, se ritiene di essere innocente, ha avuto 3 gradi di giudizio, può appellarsi all'AIA, deve insomma, ha il diritto di difendersi in tutti i modi, in tutte le sedi, ma ci mancherebbe, se ritiene di aver subito un torto, devo dire che ha avuto 3 gradi di giudizio, non mi sembra che gli siano mancati gli avvocati, ma va bene così. Detto questo, però, levare il governo a un paese per una vicenda personale, secondo me, cioè, è sbagliato, anche perché il governo di un paese, uno allora si sposta, si fa giudicare come privato cittadino e giustamente ha diritto di difendersi, ma ci mancherebbe, fermo restando che così ha sempre fatto. Però questo non è un problema di valutazione politica sulla magistratura, che il problema è che il governo si ritrova, il paese si ritrova senza un governo, che l'IVA a mezzanotte scatta un punto percentuale, che la seconda rata dell'IMU, io voglio capire quale governo reperirà queste risorse, che c'era un accordo per rimborsare i debiti che la pubblica amministrazione ha con le imprese, vorrei capire anche lì tutto confermato, cioè questi sono i problemi, non entro nei casi personali delle persone. È difficile distinguere, diciamo, uomo pubblico da uomo privato, evidentemente sì, da quello che leggo ogni tanto. Vabbè, Intesa San Paolo, anche qui la vicenda è un po' complicata. Perché? Perché se n'è andato il numero uno Cucchiani, e fin qui nulla di strano. Però era arrivato a dicembre del 2011, cioè inizio 2012, da nemmeno un anno, per sostituire Corrado Passera, che diventò ministro nel governo Monti. In realtà le dichiarazioni che abbiamo visto anche dal presidente della Fondazione Cariplo, Guzzetti, che la gestione di Banca Intesa non era stata una gestione negativa per gli azionisti, ci portano a chiedere perché fai fuori un amministratore delegato dandogli una buona uscita, perché da 2 anni ma via, buona la buona uscita, 3.600.000 euro. Che cosa è successo? Perché a noi qualcosa è sfuggito. Giro la domanda a Marco Ferrando, che ha scritto e sta seguendo la vicenda per il Sole 24 Ore. Marco, buonasera. Buonasera. Beh, che cosa è successo? Beh, la vicenda effettivamente è, come dire, esplosa in tempi molto, molto rapidi, nel senso che voci di un malumore crescente, di un rapporto di fiducia tra il vertice della banca, l'altra parte del vertice e il consigliere delegato si fosse incrinato, giravano da settimane. Però devo dire, una settimana fa nessuno si aspettava che dall'oggi al domani ci saremmo ritrovati con questo cambio al vertice, peraltro anche previsto quanto a esito, nel senso che Carlo Messina era dato comunque come successore naturale di Cucchiani. Diciamo che probabilmente la sfiducia è venuta, è maturata su 3 piani. Il primo sul ruolo, che sull'idea che Cucchiani, rispetto al presidente Bazzoli, insomma alle fondazioni azioniste, aveva rispetto a quello che Banca Intesa deve fare in Italia, in che modo deve uscire da, come dire, mollare le vesti di banca di sistema che ha avuto storicamente. Intesa è coinvolta in alcune partite molto pesanti. Ecco, chiariamo, Italia. Banca di sistema vuol dire non una banca che fa la banca e basta, ma che interviene, diciamo, su operazioni di sistema, sul sistema Italia. Vedi il caso di Intesa San Paolo con la vicenda Air One all'Italia e altre vicende. C'è una banca molto vicina a quelli che sono gli interessi del paese Italia e anche delle situazioni critiche, e non che fa solo gli interessi, come fanno molte altre banche, legittimamente, dei suoi azionisti. Possiamo metterla così? Possiamo metterla così. Storicamente Banca Intesa è esposta su queste partite pesanti. Cucchiani voleva uscire probabilmente in tempi più rapidi dei suoi azionisti. Minuti, ritorna a Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Dunque, Marco Ferrando, stavamo dicendo sulla vicenda Intesa San Paolo, che ha portato con un'accelerazione anche imprevista, va detto, alle dimissioni di Cucchiani, è arrivato come nuovo numero uno Messina, però Cucchiani ha preso 3.600.000, 2 anni di stipendio. Tu ricordavi come vi fossero diverse visioni tra l'amministratore delegato e, diciamo, il comitato di gestione e di controllo, quindi Bazzoli in primo luogo, sull'idea su che banca dovesse essere Intesa San Paolo, perché Cucchiani doveva essere una banca tra virgolette come le altre, cioè fare gli interessi dei suoi azionisti, secondo Bazzoli, e non solo, doveva invece mantenere questa sua vocazione di banca di sistema, quindi entrare dentro i singoli dei singoli dossier che si aprono in questo paese, si chiamino Alitalia come al suo tempo, possono chiamarsi Finmeccanica, possono chiamarsi Telecom, c'è una banca che non è indifferente al sistema Italia nella sua dimensione anche politico-istituzionale. Adesso che capiterà? Beh, comunque queste partite andranno gestite perché Intesa è o azionista o comunque una forte esposizione sui dossier che citavi tu, dall'Italia a Telecom eccetera. Poi sicuramente ci sarà da tenere sotto controllo la redditività. Cucchiani ancora all'assemblea dei soci di aprile aveva detto la cedola 2013 non sarà inferiore a quella 2012, quindi questo comunque è un punto che andrà salvaguardato, a cui sicuramente guardano con attenzione tutti gli azionisti, e che non sembra oggettivamente così scontato, visto che comunque anche in vista dell'unione bancaria c'è molta, molta pressione da parte della vigilanza, in particolare sul tema accantonamenti. Intesa non è messa male, però questo è un fronte da presidiare, quindi, e che in certo senso va conciliato con la redditività. Infine andrà deciso il futuro della banca dei territori, in particolare, cioè la banca rete, cioè sono le 5.000 filiali di cui dispone la banca in Italia, la rete più capillare al momento. Messina aveva iniziato a esaminare il dossier da maggio, cioè da quando gli era stata data questa delega. Adesso a quanto pare conserverà questa delega per qualche mese, giusto il tempo appunto per costruire un piano di sviluppo per uno degli aspetti che comunque è anche quello che grava di più sul fronte dei costi, che è una delle grandi partite per Intesa così come per tutte le banche italiane. E staremo a vedere se sarà più in linea, diciamo, con Bazzoli Messina di quanto non sia stato Cucchiani. Poi magari fuori dalla crisi di governo potremmo fare anche un ragionamento un po' sulla governance delle banche, perché insomma, io avevo capito che la Banca d'Italia e l'Unione Europea ci chiedessero di essere più duali, cioè che la parte di fondazione e gestione stesse un po' più fuori, mentre mi sembra di capire che qui ancora la banca funzioni come una volta, diciamo. Dentro Intesa c'è il tema delle fondazioni, hanno il 25% del capitale e di fatto, guardando l'ultima settimana, decidono nel bene e nel male tutto quanto rispetto alla banca. C'è anche il tema del duale, che sappiamo la vigilanza, Banca Italia non guarda così favorevolmente al duale di oggi di Intesa, si parla di un cantiere che potrebbe aprirsi a breve, vedremo. Grazie intanto Marco Ferrando, noi invece torniamo a occuparci della crisi di governo e partiamo, visto che è la prima giornata del nuovo palinsesto di Radio 24, da quanto dichiarato questa mattina il segretario del PD Guglielmo Epifani nella prima puntata a Radio 24 del programma di Giovanni Minoli Mix 24, il primo faccia a faccia. No al governicchio vuol dire no a un governo che trova un po' di voti di transfughi e vive una vita stentata. E c'è un'altra possibilità? Lo vedremo dopo mercoledì. Mercoledì è il giorno della verità tra Senato e Camera, e soprattutto al Senato lì si capirà cosa succede. Ma lei si aspetta una rottura dentro il PDL? Ma vedo che c'è una grande discussione al loro interno. Oggi hanno la loro assemblea dei gruppi, vediamo come finisce. Così appunto il segretario del PD Guglielmo Epifani questa mattina nel nuovo programma di Radio 24 Mix 24 di Giovanni Minoli. E quindi il presidente Confindustria dice sarebbe una cosa folle andare ad elezioni con questa legge elettorale e praticamente avendo una legge di stabilità, una legge finanziaria che sarebbe un pateracchio. Il segretario del PD dice no ad un governo stentato con transfughi. Troppo presto per fare un pronostico, ma sarebbe un governicchio. E devo dire che anche domenica sul Sole 24 Ore il direttore Roberto Napoletano aveva parlato di dignità nel ricordare come il leader del PDL Berlusconi a novembre del 2011 ebbe un sussulto di responsabilità e nei confronti del paese con un atto importante, le dimissioni, c'era lo spread vicino a quota 600 punti, c'erano i rendimenti dei BTP che erano più alti nel breve termine che nel lungo termine. Adesso, nonostante si sia tutt'altro fuori che dal pericolo e dalla crisi, con la Spagna che viene premiata più di noi dagli investitori internazionali, questo sussulto, questa responsabilità, questo senso di responsabilizzazione non c'è stato, e chiedeva al direttore di andare in Parlamento e verificare se c'è ancora una maggioranza anche all'interno dello schieramento berlusconiano. E visto che appunto oggi è partito il nuovo palinsesto di Radio 24, Giovanni Minoli, ma avete sentito anche alle 13 il GR di un'ora effetto giorno, che poi alle 21 avrà la sua controparte serale con effetto notte, un GR molto lungo. Ringrazio il direttore Roberto Napoletano per essere con noi. Buonasera Roberto. Buonasera a te, buonasera a tutti. Beh, insomma, è brutto dirlo perché sembra un po' cinico, ma non potevamo scegliere giornata più difficile, più intensa per lanciare un nuovo palinsesto fatto anche e soprattutto di informazioni, di GR più lunghi, di programma come quello di Minoli, di approfondimenti anche di carattere economico. Oscar Giannino ha appena terminato il suo nuovo programma prima di Focus Economia. Roberto. Tu sai che la sfida di questo nuovo palinsesto è la sfida di Radio 24, di quello che fino ad oggi, e non va mai dimenticato, ha rappresentato Radio 24 e di quello che ancora di più vuole rappresentare, cioè il racconto dei fatti e il coraggio delle opinioni. Credo che una radio come la nostra e un giornale come il Sole 24 Ore non possono mai rinunciare a prendere posizione, il che non significa rinunciare al valore istituzionale del nostro modo di fare informazione, significa esaltarlo prendendo posizione nel merito. Tu hai fatto riferimento a questo mio editoriale di domenica, Dignità. Sì, perché noi non possiamo rinunciare a dire che il comportamento di Silvio Berlusconi non è dignitoso, non è stato dignitoso, perché non è dignitoso voltare le spalle ai problemi del Paese e legare a una sua vicenda giudiziaria, che tra l'altro viene dopo un giudizio finale, quindi con tre verdetti, quindi rifiutare il verdetto finale significa porsi fuori dalle regole dello Stato di diritto. Quindi questo è molto grave, è molto grave soprattutto il fatto che in un momento in cui il Paese ha veramente bisogno non di un governo qualsiasi, ma del massimo di governo, perché noi abbiamo bisogno di un governo che possa incidere nella carne viva della disamministrazione pubblica, centrale e locale, perché noi abbiamo bisogno di trovare lì le risorse indispensabili, necessarie per abbassare i prelievi fiscali e contributivi, per dare quella spinta obbligatoria a ciò che ancora è rimasto, a quel pochino che è rimasto nel nostro sistema produttivo che è capace di competere. Se non riusciamo a salvare nemmeno il salvabile, è evidente che il nostro quadro diventerà sempre più negativo. Io nell'editoriale ho voluto richiamare, perché la memoria storica è importante, 2 anni fa noi abbiamo fatto un titolo, certo, fate presto, a caratteri cubitali, che ribadisco esprimeva ed esprime rigore algebrico del Sole 24 Ore. Tutti hanno dimenticato che 2 anni fa l'Italia era uscita da tutti i portafogli. Ora, il fatto che all'ultimo secondo, in extremis, abbiamo evitato che questo rischio enorme e reale si materializzasse, non autorizza nessuno a rimuoverlo. Noi abbiamo bisogno non di una stabilità qualsiasi, ma di una stabilità in grado di decidere, di prendere decisioni di cui abbiamo bisogno, e salti nel vuoto, nel buio, con tutto ciò che ne consegue, sono veramente pericolosissimi e quindi vanno evitati, perché cosa può risuccedere? Bene, un giornale come il nostro, tocca dirlo, abbiamo detto già domenica che oggi sarebbe stata una piccola speculazione che avrebbe già avuto i suoi effetti, come li ha avuti, perché non è giusto, i nostri fondamentali non giustificano un giudizio degli investitori più favorevole ai titoli spagnoli rispetto ai titoli italiani, ma la instabilità politica, lo spettacolo che stiamo dando, avrebbero certamente determinato, l'avevamo previsto, questa piccola speculazione. Attenzione, se non si pone rimedio, la piccola speculazione può diventare grande speculazione e dopo un periodo ragionevole, se i tesorieri dei grandi fondi vanno a fare i conti e si accorgono che hanno perso denaro, molto denaro, ci vuole niente a dire non comprate più Italia. Quindi noi dobbiamo invece non solo fare in modo che, come era successo, si tornasse a comprare titoli italiani da parte di tutto il mondo, ma soprattutto a un tasso che deve ancora scendere, perché la nostra economia giustifica tassi più vantaggiosi e doppiamente importanti per l'entità del debito pubblico che grava sui nostri conti. Abbiamo soprattutto bisogno di un governo che abbia la forza di non galleggiare e di dare, come dire, concretezza a un disegno e a un'azione che incidono, che vanno in profondità e possono incidere nel lungo termine. Quindi bisogna, il capitolo scuola, il capitolo sanità, il capitolo amministrazione centrale locale a partire dalle regioni, il capitolo Stato, prima o poi va aperto, prima lo facciamo e prima ci salviamo. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Dicevamo delle agenzie di rating. Oggi Fitch ha detto che dalle tensioni politiche potrebbe arrivare un abbassamento del voto all'Italia. Già da giorni Moody's fa sapere che potrebbe abbassare il voto all'Italia, e così anche Standard & Poor's, e rischiamo di scivolare su un livello molto pericoloso. La Commissione Europea ha detto che non vuole fare commenti, ma che segue attentamente gli sviluppi della crisi politica italiana. La Germania, tramite il portavoce di Angela Merkel, ha detto che la Germania ha assoluto interesse nella stabilità dell'Italia, e il quotidiano francese Le Monde arriva a dire che lo strappo di Berlusconi minaccia l'intera stabilità dell'area euro. Dicevo, non ci sono solo le agenzie di rating, direttore Roberto Napoletano, ci sono anche i rimborsi da parte della pubblica amministrazione alle imprese, un totale di una prima tranche di 15 miliardi, me ne mancano ancora 7 miliardi e mezzo. Poi la seconda rata IMU, la riduzione del cuneo fiscale promessa dal governo. Mi sembra che sul libro ormai non si farà più nulla. Stasera a mezzanotte scatta. Cioè, a me sembra che qui ci stiamo giocando un'idea di politica che possa far ripartire i consumi interni, dando risposte anche alle crisi che vediamo, Telecom, Alitalia, eccetera, con un sistema bancario che non è che abbia risolto tutti i problemi, e con un'Europa che andrebbe un po' arginata su questo tetto del 3%, cioè bisognerebbe avere la forza politica di dire alcuni investimenti no, lì non li calcoli nel deficit. Roberto. Non è che tra l'altro ieri sera e oggi i problemi sono aumentati, i problemi sono quelli di prima, soltanto che non possiamo far finta di ignorare l'entità di questi problemi. E quindi diciamo che il futuro di questo paese, il futuro dei nostri giovani è incompatibile con atteggiamenti e decisioni estemporanee come quelle prese dall'iniziativa di Silvio Berlusconi, e con quello che ha riguardato per la presenza dei suoi ministri e per la presenza di Forza Italia all'interno della maggioranza di governo. La situazione è talmente delicata e importante, approfitto per dirti che domani noi avremo un martedì speciale del Sole 24 Ore. Noi, che quindi è in edicola domani, contrariamente a quanto. In edicola con uno speciale sul risparmio, come difendere il tuo portafoglio tra spread, bond, diciamo molto dettagliato, azionario, reddito fisso, estero, con come dire piccoli consigli utili secondo me per orientarsi al risparmiatore, che non deve spaventarsi più del dovuto, però bisogna avere la forza, e noi l'abbiamo detto, l'ho detto in editoriale, lo ribadiamo ogni giorno, che in gioco in questa partita non c'è la politica solo con i suoi vizi, no, la politica con i suoi vizi mette a repentaglio ancora di più il lavoro degli italiani, e mette ancora di più a repentaglio il risparmio. Sono cose troppo serie, non ci possiamo permettere di ripetere gli errori del passato, passato peraltro recente. Un altro speciale, sempre domani, in edicola con il Sole 24 Ore, riguarderà l'IVA, perché è cambiato comunque il decreto non è entrato in vigore, e quindi ci sono una serie di problemi anche pratici, dalle fatture agli scontrini alle liquidazioni, che vanno affrontati e vanno risolte. Questo, diciamo, se mi permetti, certo, riguarda la componente storica del Sole 24 Ore come strumento di lavoro. Noi non rinunceremo mai a questa funzione. Oggi però la giornata, questo riguarda il Sole, riguarda Radio 24, riguarda tutto il nostro sistema di informazione a partire dal sito, esige da parte nostra uno sforzo di chiarezza nei confronti dei radioascoltatori, nei confronti dei nostri lettori. Noi dobbiamo dire le cose come stanno, l'abbiamo detto subito, al primo momento, abbiamo parlato di dignità, e noi dobbiamo recuperare dignità, la devono recuperare gli uomini che vivono nel centrodestra, che sanno quali sono le istanze che provengono dai loro elettori, sanno che il paese ha bisogno, ripeto come ho detto prima, non solo di una stabilità fine a se stessa, ma di una stabilità percepita dal mondo intero come capacità di governo dei problemi. Non è vero che il governo Letta non ha fatto niente, diciamo le cose come stanno. Dal punto di vista del sostegno alla crescita, il decreto del fare ha dato una spinta importante, ma questa spinta importante, penso all'inizio dei pagamenti della PA, penso agli ecobonus non solo per le strutturazioni ma anche per gli arredi, a tanti altri provvedimenti di questo genere che non vanno sottovalutati, però l'insieme di questi provvedimenti è importante ma non sufficiente. Quello che il Paese in questo momento rischia con una crisi al buio mandare in fumo sacrifici importanti che hanno fatto gli italiani in questi anni e noi non ce lo possiamo permettere, rischia di ridare corpo nella comunità degli investitori al solito giudizio sulla solita Italia. Tutto ciò, credetemi, non appartiene alla politica, non appartiene alla finanza, ma appartiene molto di più alle nostre famiglie. Sono molto d'accordo, è facile dire essere d'accordo col direttore, ma in realtà mi conoscete, ci posso anche litigare con i direttori, però sono molto d'accordo con il fatto che questo riguardi più che il presente, che l'IVA, che riguardi le nostre famiglie e quindi anche i nostri figli, perché qui, attenzione, siamo con tassi di disoccupazione da record storico e l'Italia rischia di essere l'unico paese che non aggancia o aggancia in maniera quasi risibile la ripresa economica in atto, e quindi è un problema dei nostri figli. Certo, se poi uno i figli ha già sistemati, fortunato lui, magari non si pone il problema dei figli, questo può anche essere, però insomma, in generale vedo gli ascoltatori che scrivono e sono preoccupatissimi, i quarantenni, i cinquantenni, non solo della loro situazione economica e finanziaria personale, ma di cosa sarà dell'Italia che consegniamo ai loro figli. Grazie al direttore del Sole 24 Ore e di Radio 24, Roberto Napoletano. Grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torneremo domani alle 17 a raccontare un'altra giornata economico-finanziaria. Vedo che in questo momento ci sono decine di messaggi, tornerò anche a polemizzare, a fare qualche battuta in più. Oggi veramente polemizzare con gli sms non era giornata, mai avrei immaginato venerdì di dover riaprire la settimana con un governo che non c'è. Ma tant'è, comunque un augurio di buona serata, comunque ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.